così hanno detto. E così ti sto dicendo. Hai bevuto, si ammazza. E allora è andato dentro il negozio, ha chiuso la porta a chiave, è entrato in ufficio e si è sparato. No, si è sparato qua, dietro il tavolo dove faceva le vendite. Ehi, vabbè, ufficio, lui poi lì c'aveva quella porticina lì. Lì, lì, è entrato dentro, si è seduto e si è sparato. Quindi qua l'avete trovato voi? No, no, a lui non ci avevano fatto vedere già. Perché lui c'aveva dire si è sparato con una 38, capito? Noi abbiamo sentito il suo, gli spari dentro. Poi sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, hanno entrato dentro la porta, e hanno trovato già morto dietro il tavolo. Si è messo in terra, si è sdraiato in terra, come se si è coricato in terra, ha preso la pistola e si è lasciato così. Allucinante, lascia perdere. Adamo l'ha visto. Tu dice, guarda, mai visto una cosa del genere. Dopo che si è sparato, dice, praticamente, anche la testa l'ha buccata. Il cazzo è grosso, sono a 38, siete quasi veloci. Sparate in vicinanza. Sparate in vicinanza, appoggiata ce l'ha. Sì, prima che sono uscito, senza prima di... Ma ti stavo dicendo, ma chi è quello che vendeva i cosi lì, in via Pascoli, con le cale da pesca, con la roba lì? Il capo Mario Furbizio. Oioioi. Era sotto di me, io abitavo sopra. Sì, ma non è successo da tanto. Ah, cosa è successo? Infatti. Il cacciatore, ragazzi, c'è andato una bella barca sta cercando. Una fishy fishy bella, ragazzi, una bella barca da pesca, quando ha pescare i tugni, il pesce spada, il tutto. Poi lui era bravo, era anche... è stato anche direttore di giuria alla gara che avevano fatto a Porto Torres per la pesca dei tonni, lo stesso che aveva vinto Usai, Walter Usai, che aggreffa la barca di Walter Usai, aveva vinto. Lui era direttore sportivo, direttore di pesca. Questi tonni, ragazzi, non sono la vita. E andava a pescare sempre da solo, praticamente gli ultimi 2 anni andava a pescare molto lì nella zona, Portoferro, dove c'era torre, facevano le nottate da solo. Già lo so, fra, mi ha dato un bel fastidio, mi ha fatto un bel male il giorno, è un'allucinante, cazzo, se non mi erano detto, mi ha chiamato Adamo a me, la mattina stesso. Per cui si è ammazzato l'ora di pranzo praticamente. KK, beh signori dai, sono le 11:10, io vi saluto, grazie delle due chiacchiere, ciao Antonio, Franco Galiffo, Gianni Doppio, Antonino se ancora l'ascolto, chiunque sia l'ascolto, se c'è Giulio in ascolto, lui è sempre lì. Un saluto anche a lui, buonanotte, Marco, Condor e compagnia cantante. Un saluto circolare a tutti, buonanotte, a domani se coincide il tutto, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao, buonanotte, ciao da Chiara, la parte mia. Ok, vai Antonio. Ciao, buonanotte Claudio, buonanotte, pure io chiudo perché sono molto stanco, devo andare a travagliare domani a Mazzano. Ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao, anche la parte mia. Ciao, tra poco per domani, buonanotte. Anche io devo andare a lavorare domani mattina, vi aspetto. Ancora sei travagliente? Avete travagliente dopo più di Ah, sono contento che ve l'hai fatta. Non basta che andate a travagliare, guarda che ti faccio il bicchiere. Sono contento che ce l'hai fatta. Sì, grazie. Ma stai chiudendo? Sì, sto chiudendo anche non vorrà molto più, c'ho un tracco dopo. Ho bisogno di riposare. Dai, allora al limite vi ascolto col portatile un po' poi. E continuate ancora e poi mi addormento, va. Andare dai, buonanotte anche tu, vai Gianni. Sì, ciao anche, buonanotte, dai, buonanotte, dai. Ci sentiamo domani. Voi già siete dimensionati, dai. Ma dove dobbiamo travagliare un prima di tu? Adesso devi andare a lavorare a pagarci la pensione a noi. È normale. Cioè, però siete andati troppo tardi in pensione, la verità. E vabbè, le leggi del capo che fanno? Perché io a massimo, come era una volta, a massimo a 54 anni, a 56 anni ti avrei mandato tutti in pensione. E come la penso io, cioè perché poi il lavoro, per fortuna non c'è lavoro, perché se quello lì non va in pensione presto, a 67 anni, ma tu sei macco, a 67 anni, se quello non va in pensione, cosa succede? Che lavoro poi non ce n'è, è per quello che poi non c'è lavoro, deve essere continua la cosa. Vabbè. Sì, ci deve essere un coso lì, un limite basso ci deve essere. È per quello che non ci dà lavoro poi. Ma dai, c'erano gli sbagliacci, se ne rendano conto di certe cose. Non mi occupo la fucilata ancora. Sì, ha cura più di una di l'altra, già è bravo, già. Sono tutti così. Ma io sono del parere che i politici fanno sempre interessi dal calore. Lo sai, tutti ladri sono, ragazzi, sì. Siete bravo, ma cosa bravo, non ve ne è uno bravo. Bravo è quando, cioè, lasciamo perdere, va. Ma sai cosa fa? Allora, adesso spiego questa cosa e poi mi ritiro. La cosa è chissà, cioè fate un pezzo in occhi e cento sbagliati qua, poi entra quello là, fanno un pezzo qua e 200 sbagliati qua, cioè non se ne cava più piedi. Ma non fa casino, non sono ladri e basta. Non fa casino, ma che casino? Un casino non è fatto ebbe. Prima erano meno studiati, ma erano più intelligenti. Adesso sono più studiati e sono dei garraggi che non venivano a dire. Niente, garriaggia, Ma perché non si vergognano? Che fanno prima? Tu c'è solo il coronavirus 19. Sono la vergogna del paese, sono la vergogna del paese. Prima si pensava all'italiano, si pensava e di vivere bene qua, si pensava, cioè, no di dare un culo all'altro, agli altri paesi, ma perché non si vergognano? Che ci vuoi fare? Se che la barca va, lasciala andare, dice tu. Va bene, riprendi già. E via là. Tanto a letto stai andando. Buonanotte, stai andando via, là. Ci sentiamo domani, Ehi, a cappa. Ok. Penso che, comunque, dico l'ultima cosa, penso che un Pertini degli anni che furono e di altri che ci sono stati, non ci sarà più. Vedi, sono gli enti garriaggia che pensa alle tasche sue e basta. Se il lavoro non lo fai girare non ce n'è il lavoro, se le cose non le fai andare non ce n'è il lavoro. Cioè, se fai entrare ghici extracomunitari, peggio che mai, perché lo dai a loro l'italiano non lavora. Perché loro li pagano 20 euro e a te se ne devono dare 50. Sì, ma fanno figurare che li bagano, ma da voi già lo sai come è la storia. A loro li va bene. Sì, ma la cosa deve essere uguale per tutti, deve essere. Cioè, queste cose devono finirmi, queste cose. Aziende che ti vogliono lavorare non ti pagano, ma lo vediamo. Sono quelle le cose da far finire. Vabbè, io devo fare il manico, ce l'hanno. capito già. Quindi Paoletto mi ha mandato un messaggio, si è passato la macchina stasera. Ah, vero, scusa. Allora, tutto l'uso di Cesarò, lui ce l'aveva visto il foglio che ha girato e c'era un cane addirittura. Per scattare il cane ci è uscito sopra il guardarete, ma lui mi dice. Ah, vai, io se la duccio, non mi l'ha fatto fare a lui, ma si scusa. Ma glielo ho detto. Adesso qua, Paolo, rimani qua, dai, tu la mani la fine a presto e parte, non c'è problema. No, no, non no, ma come non ha cazzicato la fiducia? Mica era proprio, non riusciva neanche a camminare, io non so, mi ha fatto prendere la mano. Fra, metti l'occhio sul segnale a vedere come sta andando. Perché poco fa faceva questa alternanza forte, boh, non capisco perché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perfetto, se non da 40, radio super 5, alternata non è, insomma. Bravo. Dove io non lo so se non lo dove va a scaldare o che cosa, però faceva... Noi sono scontati anche in cuffia, ma l'hanno detto che era la nostra fermata della modulazione. L'ho sentita pure io, Gianni. Però poi mi ha detto passerà e non ce la vedi più. Come avvertire la figa? No, ho avvertito gli spinuzzi, le bananine, devono essere del trattato, l'ho fatto. Ma le bananine ci sopra, vedi? E io? No. Sotto devi mettere, Gianni. Tu li salvo, non so, per mettere un baracchino a 50 ampere. Ehi, fatto. Io stavo mettendo un baracchino a 50 ampere, anzi, 3,5 veramente. Bravo, è stato apposta. Devi utilizzare quelli di sotto. Ma se utilizzo quelli di sotto fa rumore, fa alternanza, aspetta che gli attacca. Quelli di sotto, se sono legati a quelli di sopra, come sta? Non va a vedere. Adesso sto uscendo, quello che si manda laterale. Va, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Franco, guarda adesso come va. Una bomba. È uguale, sta bomba su. Sì, sì. Stessa modulazione, stesso segnale. Alternata non ce n'è, va bene. Ma vado a esitare, gli arrivi subito. Su quando arriva, mi chiamano, piano. Ah, il motorista. E allora? Ma te lo piace di qui? No, ma non piace al carrozziere, devi fare di tutto il carrozziere. Già che sono andato a cercare i tetti io, perché loro non si muovono più dall'officina, adesso sono signori. E cosa costa del motorino, già? Non lo so te. Non lo so, no, non ne ho l'idea. E quello che sarà non è un 200 euro. E io sono in gusto, non posso lasciare il motorino rotto. Beh, non ho capito. Perfetto, si fa così. Stavo dicendo già, ma quel filo rosso e nero, dove l'hai preso? Da scusa. Ma quello grosso, perché io devo fare l'alimentazione della batteria alla radio, capito? Ce l'ho io quello grosso, Rosso e nero che hai, quanto ne hai? Io ce l'ho, quanto basta. Ma di quello grosso è già, devo caricare della radio là, capito? Non è grosso, cazzo è quello da 2,5, 2. E allora va bene, no. Perché lo collego dalla batteria e tu lo faccio uscire, beh, però devo comprare quel porta fusibile in cristallo, il vostro, praticamente. Bisogna andare a fusare, allora. Tu se mi vado una 74 euro di luce. Dai, vai, carità. No, un porta fusibile di quelli trasparenti. Dai, ci vedi ci sono, mi sa che io. No, ce l'ha fusato quelli, ma come l'ho messo io, ma anche per una radio non ci vuole questo, cosa ti dà fusi, dimenti quelli porta fusibile tipo quello della macchina, rimetti un fusibile da 30, per ampere va benissimo. Sono d'accordo con te, ma io ci voglio fare anche lo scatto, perché lo scatto batteria, capito? Il territorio per staccare, vabbè non ce n'è bisogno, prima che ti dice questo, c'era niente. Ma io non ne ho messo la mia bucca. Basta che tu metti un fusibile, fa un fusibile. Basta. E non si può andare per chilometro, perché va bene. bene qua questa radio già. Ma va bene, qual è questa? Questa è 680. Come 1060? K. Già va bene, va bene, già va bene, già va bene. Ma che c'è lo stato? Sì, ma non proprio come quello di caldo, quello di caldo. No, forse come quello, come quello. Sedeci. Perché c'è un micidio a minimo qua, sinceramente. Vabbè. Ehi, quello lì che tiene solo quello e basta, e basta. Se lo viene a fare là, se quando vai in giro. Perché io voglio riserva e andare troppo. Infatti là se lo mette in macchina. Cosa mi metto? Me lo mette in macchina. Non c'è l'antenna piccolina, va bene. Non ci metti, non metti la l'altra, la ABDC. No, ci metto quella caricata, che quella tiene qua. Questa l'ho già provata con il 300 e va benissimo. Ma con la base manica? No. Ma stacco quella della radio, dalla basetta della radio, ci metto questa, quella piccola caricata. E l'antenna della radio me la compro da Fusaro, ci metto delle antenne, quelle antenne da rigide, dai, che vanno su paradetta. Ma la puoi mettere sotto al cielo, la radio la prende lo stesso. Avanti. Avanti Gianni, buonasera. Bene, bene, sta arrivando bene, dai, bene, dai. Qui siamo anche a 9-5. Quando? Adesso? Adesso? RM Italy. Sì, sì, va bene, va bene, va bene. Cosa c'hai attaccato? Ma lo ricordo, sì sì, ho capito. Sono in compagnia di Franco, lo sapete se ti sente. Ciao K2, si sa che lo 7 sta arrivando qua, non lo so se mi ascolta. Siamo noi più distretti della notte. Glielo ho chiesto a Claudio se lo stavi per me, ma lo volevo mettere in garage. Ma tu mi ricordo anche questa testa che sembrava una sua, te lo ricordo. Ah, sì, sì, lo conosco, lo conosco. A Gabbiano, Gabbiano, Gabbiano. Me lo ricordo bene. Cordone! Franco, ti arriva il chat. Questo perché non so se mi tutti arriva, mi ha già capito. Grande capello, è Cordone! Chi è, va? Sta vincendo, ma già, ma mi ascolta già. Già che ti ascolta, va basso e basso, poi va. Ma è questo antiaguro, se lo va appena lui, va appena lui. Certo. Tanto fammi la fonte, saluta. Ehi, a Franco ti saluta, già. Sì, a spunto le attaccano queste cose, a fare il primo. Franco, due punti di sì. No, sono qua. Stavo dicendo, ma con gli ispettori domani facciamo. Sì, domani, domani. Ma la vita della... Pensate che è da Gianni, adesso da Gianni, certo. Ma se a casa ti facciamo a casa, ti posi in testa, tanto ti sei anche per la macchina, no? Stavo dicendo già, c'è un dottore per le mie. Io ce l'ho, io c'è, il tuo funziona, ok, se no per la gente. No, già per la mia, io, no, già funziona, ci stava, c'era la spina, ho cambiato la spina, ce l'ho bene. Cavaga, Gianni K2, lo lasciate, baracchini, sono in base adesso. Gianni, Bobo, vabbè, vabbè, io mi gioco a mettere alle stufa, scettiamo male, dai. E anche io, dai, faccio fuori di qua, o se già, dai, se c'è il mio lavoro. No, che ha più bianco di che sono ascolto. C'è del monitor, non è vero un casino che sono ascoltato. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ehi, dai, ciao Fra, sentiamo, sentiamo. Ma se lo campano di Gasatuia, chi c'è tu? Sentiamo, buonanotte. Ciao K2, se mi stai ascoltando, ciao, buonanotte. Buonanotte Gianni, buonanotte Gianni K2, ce l'hai ascoltato tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti, cuore di per me.